Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio Fabio Cantadori in regia, la parte tecnica, e Laura Banossi come sempre in redazione. Andiamo. Diverticoli, come evitare di farli infiammare. Lenti a contatto, sei certo di usarle bene? Menopausa, vietato superare gli 85. Oggi parliamo di un, non voglio chiamarlo problema perché non sarebbe corretto, ma di una condizione molto frequente, la diverticolosi, termine che indica la presenza nel nostro colon di diverticoli, piccole sacche, estroflessioni per essere più precisi, che spesso si scoprono per caso, magari durante un'indagine endoscopica. Nella maggior parte dei casi i diverticoli rimangono lì buoni buoni senza dare alcun problema. Ma a volte possono infiammarsi e quindi trasformarsi, questa volta sì, in un problema che richiede aiuto da parte del medico. Noi in ogni caso il medico ce l'abbiamo, ci portiamo, come si dice, avanti. E in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia agli ospedali riuniti di Bergamo. Dottore, buongiorno, sono molto felice che lei sia tornato a trovarci. Buongiorno a tutti e buongiorno a te, Nicoletta. Allora, sono davvero tante, più di quanto si possa immaginare, le persone a cui spesso per caso viene diagnosticata la presenza di diverticoli. Però, dottore, la scoperta genera sempre un pochino di preoccupazione, anche se voi dite del tutto ingiustificata. Non dobbiamo preoccuparci, vero dottore? Bisogna dire che i diverticoli del colon di per sé non sono una condizione patologica. Sì. È vero che però si possono complicare, cioè si può sovrapporre una patologia che può dare dei problemi clinici, ma va ricordato che questo avviene in meno del 10-15% dei casi. Questo, guardandolo dall'altra parte, vuol dire che nel 75-80% dei casi anche avere i diverticoli vuol dire non avere mai sintomi o mai disturbi. Certo. Però non preoccuparsi non vuol dire ignorare la cosa. Direi che avere una diagnosi anche occasionale o casuale di diverticoli è una precisa indicazione quantomeno ad andare ad esplorare, a valutare che tipo di cambi si possono fare su termini di alimentazione, di stile di vita, per almeno cercare di ridurre il rischio che possano infiammarsi. E questo è ancora più vero in particolare se i diverticoli sono numerosi, ma più che numerosi, di dimensioni un po' più grandi. Quindi i diverticoli più grandi sono quelli che possono in teoria dare più problemi. Intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, potete chiamare sin d'ora, come scrivere, lo state già facendo, al 349 238 6666. Allora dottore, i diverticoli non sono un problema, possono diventarlo nel caso si infiammino. Oggi proprio insieme a lei cercheremo di imparare come evitare questo rischio e al tempo stesso però vogliamo metterci anche nelle condizioni di individuare precocemente quei segnali sospetti che ci avvertono che i nostri diverticoli hanno deciso di iniziare a darci un po' di problemi. Dottore. Sì, direi che è senz'altro importante quantomeno nel momento in cui uno sa di averli cercare di porre un po' di attenzione a quelli che possono essere i segnali o quali possono essere le condizioni che li possono in qualche modo provocare. E allora è chiaro che bisogna quantomeno di intendersi su quello che vogliono dire i termini. Apriamo il medichese, perché tante volte sa che non ci parliamo e noi ci agitiamo proprio perché non siamo bene informati. Allora, apriamo il vocabolario medichese e abbiamo, come leggiamo, diverticolosi. Allora, diverticolosi vuole sostanzialmente dire che ci sono i diverticoli, punto. Non c'è nessuna malattia, non c'è niente di particolare, vuole solo, è solo una descrizione anatomica. Bene. Andiamo alla malattia diverticolare. Ecco. La malattia diverticolare vuol dire che la presenza di quei diverticoli, sì, senza arrivare a degli estremi di condizione molto pericolosa, in qualche modo contribuisce ad alterare il normale funzionamento dell'intestino. Quindi sì, ci possono essere dei disturbi piuttosto generici, non invalidanti, ma ci dicono che c'è una condizione patologica. Mm. Poi si passa invece a quelle che sono le complicazioni vere della malattia, la più importante e la prima, se vogliamo, delle quali è la diverticolite, che sostanzialmente vuol dire che si infiamma una o più di queste sacche diverticolari, e infiammandosi è chiaro che allora il quadro clinico può assumere connotati più rilevanti, perché può essere ovviamente, come tutte le infiammazioni e infezioni, essere caratterizzato da febbre, da uno stato febbrile che si associa al dolore, e l'infiammazione di questa sacca può portare delle complicazioni che, seppur molto rare, possono essere il sanguinamento, e quindi è una cosa molto eclatante che preoccupa molto, anche se nella maggior parte dei casi si limita da sola. E ci possono essere casi molto drammatici di perforazione, sono più tipici nelle persone anziane. O nelle persone diabetiche, o nelle persone anziane diabetiche e in sovrappeso, in cui ci può essere la perforazione e quindi diventa un'urgenza anche chirurgica. Senta, dottore, vogliamo ricordare rapidamente i sintomi, i segnali che potrebbero metterci un po' la pulce nell'orecchio e farci pensare ai diverticoli? Allora, in quella piccola quota, abbiamo detto il 15-20%, che danno segno clinico di sé, in genere noi abbiamo dei disordini della funzione intestinale che possono essere dei dolori addominali, in genere localizzati nella parte inferiore sinistra, in corrispondenza del sigma generalmente, che è la zona dove nel 90% dei casi si formano, i diverticoli si formano, ma poi si possono avere gonfiore, flatulenza, e dell'irregolarità dell'alveo dell'intestino piuttosto peculiari, nel senso che si può passare da uno stato di stitichezza con feci che vengono definite caprine, perché sono proprio come le palline delle caprette, ad alternanza di episodi diarroici. Questo è un sintomo abbastanza chiaro, importante da valutare. Poi in condizioni particolari ci può essere nausea, un malessere generale, però è chiaro che queste sono cose un po' più generiche e non servono certamente a fare la diagnosi, ma a porre il sospetto. Quando invece c'è una diverticolite, come detto prima, allora è impossibile non accorgersene, perché il dolore, c'è un'associazione tipica di dolore addominale, febbre in genere con brivido e spesso alterazioni intestinali come una scarica diarroica. Ecco che allora questa condizione è una condizione che va valutata con attenzione. Ripeto, è piuttosto rara, frequente rispetto alla quantità di persone che hanno i diverticoli, ma chi sa di averli, quantomeno davanti a sintomi del genere, non li deve sottovalutare. Certo. Allora, 800 24 0024, aspettiamo le vostre telefonate se volete, se vi è stata fatta diagnosi di diverticoli e volete sapere come fare per evitare che si infiammino, se avete già una malattia diverticolare o se avete già provato i dolori e i sintomi della diverticolite. Restate con noi, consigli del dottor Fagioli per voi, 800 24 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso parliamo di lenti a contatto, ma vogliamo rivolgerci in particolare a chi le usa occasionalmente o solo durante alcuni periodi. L'estate è sicuramente uno di questi, quando, complice il caldo, la voglia di fare sport, gli occhiali diventano un impiccio e si tendono a sostituire appunto con le famose lentine. In linea con noi abbiamo il professor Pasquale Troiano della Clinica Oculistica dell'Università di Milano presso l'ospedale Policlinico, che è presidente della Società Italiana di Contatto Medica. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Professor Troiano, allora, rivolgiamoci a chi usa le lenti ogni tanto, a quello che voi comunemente chiamate portatore occasionale. E certo, quello che lei dice è verissimo. Indubbiamente l'estate è la stagione dell'uso delle lenti a contatto, perché la lente a contatto, a prescindere dallo sport, comunque avvicina di più, è più estetica, tutto quello che vuole. Comoda, certo. È più comoda, quindi alla fine anche persone che durante tutto l'anno non usano abitualmente l'occhiale decidono che forse per quel mese di vacanza potrebbe essere bello portare la lente a contatto. Ma spesso e volentieri questa cosa si realizza in contesti ambientali non sempre idonei all'uso della lente a contatto. Ricordiamoci che andare al mare,

giustamente, soffrendo un po' di colon irritabile, ho sempre avuto poi i miei problemini, ma sì, niente di più. E ad agosto, tornando proprio l'ultimo giorno di vacanza, tornando a casa, ho cominciato ad avere un dolore, proprio come diceva il professore, in basso a sinistra, sì, e un po' di malessere generale. Non è che mi sia preoccupata più di tanto, però scendendo dal letto non riuscivo quasi a appoggiare i piedi perché mi si ripercuoteva questo dolore. Allora ho provato a telefonare al dottore pensando neanche di trovarlo, sì, a fine agosto. Invece, grande sorpresa, l'hai trovato. Mi ha visitato e mi ha detto di corsa al pronto soccorso. Io ho detto, ma dottore, ma cosa dice? Un po' di mal di pancia, dico, mi vergogno andare al pronto soccorso. No, stia tranquilla che se sentono quello che sento io. E infatti mi hanno ricoverata d'urgenza con codice rosso e ho rischiato un intervento piuttosto brutto, sono rimasta una settimana sotto flebo di antibiotico, insomma è stata un'esperienza che non mi aspettavo. E per cui sono molto subdoli i diverticoli, possono, io adesso quando parto vado con le scorte di antibiotici, ho più antibiotici che vestiti nella valigia. Giulia, ma e adesso immagino che tu abbia anche un po' cambiato stile di vita. Ma neanche più di tanto, perché io ho sempre mangiato fibre, ho sempre fatto movimento, per cui non, diciamo, mia madre soffre di diverticoli, per cui penso che una certa familiarità. Chiediamolo al dottor Fagioli. Giulia, dottore, cosa le dice il racconto di Giulia? Il racconto di Giulia è sostanzialmente abbastanza tipico, nel senso che non abbiamo qualcosa che ci fa prevedere chiaramente quando e chi avrà il problema. Sì. Quello che credo sia importante sottolineare in questa storia è che c'è stato una sorta di ipotesi o suggerimento diagnostico molto tempo fa e non ho capito se poi a questo è seguito un esame specifico per valutare i diverticoli, cioè un esame endoscopico o un clismo opaco. Giulia, ancora in linea con noi? Io il clismo opaco l'avevo, proprio dal clismo opaco si erano evidenziati questi diverticoli in occasione di un intervento all'appendicite. Sì. Ecco, e un'endoscopia non era mai stata fatta? No, l'endoscopia non l'ho ancora fatta perché anche quando mi hanno ricoverato ad agosto non hanno potuto farmelo perché hanno fatto un altro clismo opaco, perché non ero in condizioni di fare. Perché dottore, bisogna comunque farlo, una volta che ci dicono lei ha i diverticoli, bisogna comunque procedere a delle indagini ulteriori? Prendiamo spunto proprio, io ringrazio Giulia di averci raccontato la sua esperienza perché è un caso abbastanza classico, anche se non frequentissimo, ma in modo che possiamo anche noi prendere, no, delle indicazioni importanti. Dottore, quindi altri esami? La cosa importante quando viene posto un sospetto oppure una diagnosi, bisogna ovviamente prendere delle contromisure. Allora, cercare di identificarli e mapparli bene e vederli tutti è sicuramente importante. Quindi il clismo opaco, la colonoscopia sono due approcci che vanno considerati. Il vero cambio nella storia di una persona portatrice di diverticoli è quello che è successo all'ascoltatrice, cioè quando compare un evento clinico, questo è il segnale che bisogna modificare il nostro atteggiamento per prevenire il problema, e quindi lei ha già dato la risposta, si porta dietro degli antibiotici. Sì. Che a quel punto o antibiotici o con qualche evidenza ancora controversa i fermenti lattici, probabilmente assunti a cicli, sì, possono servire in qualche modo a prevenire un quadro eclatante come quello dell'ascoltatrice, che probabilmente è arrivato al punto da creare un'infiammazione al limite della perforazione, tant'è vero che era a rischio di intervento, però se l'è scampata. Andiamo ad Ancona, ci chiama Luciano, benvenuto Luciano, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, siamo qua. No, niente, io volevo solamente, diciamo così, a parte che ho avuto episodi frequenti, diciamo così, non era proprio di verticolite, però c'avevo, diciamo, delle infiammazioni ogni tanto a livello intestinale con frequenti sfoghi diarroici, e mi dicevano di prendere antibiotici e, come diceva il medico, oppure fermenti lattici. Fermenti lattici, però visto che nessuno di due a lunga non mi ha portato nessun beneficio, ho cambiato. È un amico mi ha detto di prendere della soia e con quella ho risolto dei problemi, anche perché mi ha spiegato, non so se sia vero o meno, chiedo la conferma al certo medico, che i villi che la diverticoli sono, diciamo così, originati da una certa pigrizia di villi intestinali. i quali, essendo setole, sono spugne che non si erano spugne che non asciugavano, ecco, che non, che non facevano più il loro lavoro. Esatto. Luciano, grazie per questo spunto. Lo giro subito la sua domanda al dottor Fagioli. Sì, in realtà, parlando del meccanismo con cui si formano, non è quello. Il meccanismo con cui si formano... Però era carino, vero? Pensa. Era carina come idea, devo dire che era carina. La realtà delle cose li fa assomigliare un po' di più alle ernie, per esempio, quando abbiamo un'ernia inguinale, un'ernia ombelicale, cioè è una estroflessione per un cedimento di una parte della parete. Sì. C'è un punto preciso nell'intestino che è più debole ed è il punto in cui entrano le formazioni vascolari, perché rendono meno omogenea la parete fibrosa, la parete sierosa dell'intestino, e quindi la rendono un po' più delicata. Un aumento di pressione all'interno del lume, che si associa in genere alla presenza di feci molto dure, molto secche, molto disidratate, e quindi un intestino stiptico, a un aumento della pressione è sfonda un po', le cause di questa spinta verso l'esterno. Quello che mi viene da pensare è che forse andava regolarizzato l'intestino in senso di funzione nel paziente Luciano, perché più che episodi di malattia o diverticolare o diverticolite, sembravano quelle forme di alterazioni intestinali più tipiche di chi ha un intestino che o è un po' pigro o non è proprio regolare dal punto di vista della funzione. Ecco, in questo caso la soia ha funzionato per Luciano, ma possiamo passare questo messaggio, che la soia funziona? Il messaggio fondamentale sia che quante più fibre ci sono nell'intestino, tanto meglio è. E le popolazioni, non dovremmo dire del terzo mondo, ma insomma usiamo questo termine, in particolare delle pianure dell'Africa, dove si mangia molta più dieta ricca di verdure rispetto alle diete carnee, quasi non conoscono questo problema. Vede, ecco. Quindi bisogna meditare sul nostro stile alimentare e soprattutto correggerlo. Eccoci di nuovo insieme, oggi parliamo di diverticoli. In linea con noi il dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia all'ospedale Riuniti di Bergamo. Aspettiamo come sempre i vostri interventi al nostro numero verde 800 24 00 24. Ma prima apriamo una parentesi, ci rivolgiamo alle donne che sono in menopausa e hanno accumulato qualche chiletto in più. In linea con noi il dottor Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e predittiva alla Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei. Dottore, nel titolo noi abbiamo messo menopausa, vietato superare gli 85. Gli 85 non sono i chili, ma i centimetri della circonferenza addominale. Questo infatti rappresenta un fattore di rischio, dottore. Perché? Spesso questo po' di pancetta, oltre ad altri disagi che ci possono essere, per cui le signore magari non riescono più a mettersi bene la giacchetta che era così simpatica, così elegante, che era nell'armadio, perché sono aumentate un po', e aumenta un pochettino l'adiposità nella parte superiore del corpo, e questo è dovuto al fatto che non ci sono più gli ormoni femminili che danno le curve giuste, sì, alle signore, diciamo così. E spesso questa cosa qua si associa anche ad altri disturbi, dei dismetabolismi, a delle alterazioni del colesterolo, dei trigliceridi, della glicemia, della pressione arteriosa, e noi sappiamo che queste persone sono più a rischio di tante malattie, soprattutto le malattie di cuore, di diabete, ma anche, oggi viene fuori sempre più chiaro, no, che anche di alcuni tumori, in particolare di tumori della mammella. Per questo che stiamo iniziando una fase pilota di un grande studio rivolto a signore sane che stanno bene, no, e che però hanno questa adiposità addominale misurabile con il centimetro della sarta, perché vogliamo vedere se riusciamo a, modificando il loro stile di vita e usando anche un farmaco usato da 50 anni per il trattamento iniziale del diabete, no, che è la metformina, per vedere se riusciamo a modificare sia questi parametri metabolici, no, aiutarli a dimagrire, no, a mettere giù la pancetta in particolare, ma l'obiettivo è di vedere se riusciamo a ridurre ridurre il rischio di ammalarsi di cancro della mammella. Professore, tra l'altro c'è un appuntamento che io voglio dare alle ascoltatrici di Radio 24 che si ritrovano nel profilo da lei descritto, quindi donne sane in menopausa con un giro di vita superiore agli 85 centimetri. Domani infatti all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in via Venezian alle 18 nell'Aula Magna lei accoglierà le donne che vogliono partecipare. Sono interessate o anche solo interessate a saperne di più. Noi spieghiamo in che cosa consiste il progetto, no? Che impegni rappresentano e che vantaggi e svantaggi può rappresentare, no? E poi le persone possono scegliere se sono interessate a partecipare a questo studio oppure no. Intanto noi l'invito l'abbiamo fatto e ci rivolgiamo quindi a tutte le donne: attenzione al vostro girovita, soprattutto se siete in menopausa. Dottor Berrino, io la ringrazio, ci racconti poi che cosa le hanno detto le donne, se sono venute, se hanno accolto il nostro invito. Certamente, daremo notizie sulla radio se possibile. Volentieri. Dell'evoluzione di questo progetto. Noi siamo sempre a sua disposizione. Buona giornata. Buona giornata, dottor Berrino, e buon lavoro. Buona giornata a voi. Dottor Fagioli, torniamo a noi, a queste piccole sacchette. Vogliamo non farle infiammare, ma voglio leggerle alcune delle preoccupazioni che arrivano via SMS, sono le più frequenti. La prima, se i diverticoli possono predisporre al tumore del colon. Allora, diciamo che per togliere subito il dubbio, non sono fattori predisponenti al tumore del colon in sé. Non c'è nessuna evidenza che la presenza dei diverticoli aumenti il rischio di cancro del colon o del retto. Però c'è un'attenzione che bisogna porre. I diverticoli possono essere un piccolo tranello nel percorso della diagnosi del cancro del colon, perché possono rendere meno facile l'esecuzione di alcune indagini, l'endoscopia, sì, o un pochino più complicate da interpretare sia l'endoscopia che il clismo opaco, per cui diciamo che ci vuole un pochino più di attenzione e soprattutto avendo dei sintomi che possono anche essere sovrapponibili, è chiaro che in una persona che sa di avere i diverticoli e che ha dei disturbi che sono sì compatibili con i diverticoli, ma potrebbero anche essere la spia di qualcos'altro, forse la soglia di attenzione va un pochino abbassata. La seconda domanda, se, che ricorre negli SMS, è se c'è un legame tra diverticoli e intolleranze alimentari. Anche qua sfatiamo un'altra cosa, non c'è nessun legame di fatto. Però è vera l'osservazione di molte persone magari consapevoli o anche non consapevoli di avere una malattia diverticolare, avendo dei piccoli disturbi, eliminano alcuni cibi e questo gli porta a un miglioramento. È chiaro che questo, quando una persona sa di avere i diverticoli, può portare alla conclusione che c'è un'associazione intolleranza, certo, a quel cibo e diverticoli. In realtà quello che succede è che in presenza di malattia diverticolare o diverticolite, come abbiamo detto prima, c'è una minor capacità dell'intestino a gestire il transito degli alimenti e quindi non è una questione di intolleranza ma una generica capacità dell'intestino, ed è chiaro che i cibi che si eliminano sono quelli che hanno delle caratteristiche più tipiche per dare dei disturbi, o cibi che fermentano, molto zuccherini, amidi, che quindi possono produrre gas e dare quel senso di disturbo intestinale e possono far confondere in questo senso. È un messaggio di Michele che ci scrive: chi soffre di eccessiva formazione di gas nell'intestino è più soggetto alla formazione di diverticoli? Ma il meteorismo, cioè la formazione di gas, può avere molte cause, tra queste ovviamente la presenza di un intestino molto pigro, di feci piuttosto dure, sono condizioni che consentono un ristagno per più tempo di contenuto intestinale, e quanto più contenuto a capacità fermentante c'è, tanto più probabile che questo possa da una parte causare i disturbi, ma dall'altra anche slatentizzare una malattia diverticolare o addirittura contribuire alla formazione del diverticolo. Quindi certamente va analizzata la cosa, se è solamente un difetto di alimentazione o se c'è associato anche un difetto di transito. Abbiamo in linea con noi Carla che ci chiama da Genova. Carla, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie della chiamata. Eccoci. Dunque, io vorrei porre due quesiti rapidi al professore. Uno è questo. Io soffro di diverticolosi da un paio d'anni, scoperta per caso da una colonscopia in seguito a episodi di eroici che hanno a loro volta consigliato una coprocultura da cui si è venuto fuori la presenza di emati, eccetera, eccetera. Il gastroenterologo mi ha fatto fare la colonscopia e è stata diagnosticata una diverticolosi piuttosto severa. Sì. Io da 2 anni la curo con ottimi effetti, devo dire, con fermenti lattici, mesalazina e anche antiatici per la presenza di una vecchia ernia iatale. Sì. Poi niente, mi è stato consigliato di non assumere legumi, non particolari fibre, eccetera. Sì, alla dieta torneremo. Carla, venga la domanda però. Ecco, grazie. La domanda è questa. Esiste, mi hanno detto i medici, un esame avanzato e meno invasivo della colonoscopia, che è un TAC, che testimonia dell'assottigliamento o meno, più accentuato o meno, della parete intestinale interessata dalla diverticolosi. Vorrei sapere che esame è, credo che sia un attacco intestinale, e se è consigliabile farla, insomma, in che forma. La seconda domanda, rapidissima: l'assunzione di prodotti a base di mirtillo può proteggere i capillari presenti all'interno dei diverticoli che potrebbero sanguinare? Grazie Carla. Grazie mille, buona giornata anche a lei, dottor Fagioli. Allora, esame? Rapidamente, l'esame di cui parla la signora Carla è una cosiddetta colonoscopia virtuale. È fatta attraverso la TAC, si fa la stessa preparazione intestinale, cioè di pulizia dell'intestino, e si fa una TAC convenzionale, con la differenza che un software dedicato ricostruisce in maniera molto affidabile tutto il transito intestinale e anche la parete. Diciamo che è un esame che può avere molto significato nel caso della valutazione delle complicanze. In una persona che sa già di avere la condizione e che la sta tenendo sotto controllo in maniera ottimale, come sta facendo la signora Carla, non c'è bisogno di fare dei controlli periodici con quella TAC, sicuramente no. Una cosa va sottolineata, ed è questa una cosa che capita spesso: la signora ha esordito dicendo che ha fatto una diagnosi casuale. Io troverei che ha fatto una diagnosi assolutamente puntuale, nel senso che si è presentata con un episodio di alveo diarroico con delle tracce ematiche, che sono due dei cardini per porre il sospetto di diverticolosi, e tanto è vero che fatto l'esame poi l'hanno riscontrata, quindi è tutt'altro che casuale la diagnosi. Mi sono perso invece. Ma io sono qua e l'accompagno a parlare di prodotti a base di mirtilli. Fanno bene? Ma non ci sono le prove scientifiche, è vero che in rafforzano la parete venosa. In medicina ci sono un sacco di cose, ma anche nella vita ci sono un sacco di cose che facciamo senza che siano provate e siamo certi che funzionino. Hanno la capacità di stabilizzare e regolarizzare i capillari in generale nel corpo. Non è un problema di capillari la malattia diverticolare, per cui la stretta relazione tra una cosa e l'altra è meno immediata. C'è un blando effetto antinfiammatorio e questo invece può avere il suo significato, però siamo nell'empirismo più puro, insomma. Dottor Fagioli, andiamo alla dieta. Chi scopre di avere diverticoli e vuole in qualche modo cambiare un po' stile, dovrebbe farlo. A quali alimenti deve dare la preferenza? Quali deve eliminare o ridurre? Allora, diciamo che il principio generale è di rendere più regolare il transito intestinale, quindi il primo presidio è quello di assumere alimenti ricchi di fibre, sì. Soprattutto accompagnarli ad abbondanti quantità di liquidi, meglio acqua non gassata. Sì. E, è chiaro che le fibre vanno accompagnate all'acqua, perché l'una senza le altre o viceversa hanno molta meno efficacia. Certo. In alcuni casi è necessario integrare la dieta con supplementi a base di fibre stesse, quindi con psillo, con crusca, in maniera da rendere più voluminosa e più soffice la componente del transito intestinale. Quello che è assolutamente importante, ma questo in realtà vale per tutti, è di evitare l'uso di lassativi. I lassativi in un caso come questo non fanno altro che rischiare di complicare di più le cose, rischiare di infiammare di più e certamente di non risolvere il problema. E poi l'ultimo aspetto, e questo alla fine viene fuori ogni volta che parliamo, qualunque sia l'argomento, bisogna aumentare l'attività fisica, il movimento, inteso proprio come attività aerobica, quindi jogging, camminata a passo veloce, bicicletta, cicletta, cioè cercare di mobilizzare per un tempo ragionevolmente lungo, ma senza eccessiva affaticamento dell'organismo, il fisico. Poi ci sono dei piccoli consigli, se volete, più della nonna che del medico. Mi piacciono. Sono quelli di asportare i semi o evitare varietà di frutta e verdura per le quali non è possibile allontanare queste componenti compatte. Pensiamo ai fichi, le fragole, i lamponi, i ribis, i kiwi, il melograno, eccetera. E questo ha l'unico vero vantaggio di cercare di evitare che questi semi o queste parti non frantumate con la masticazione vadano proprio, cioè in realtà andare ad infilarsi nel diverticolo, ostruirlo, indurre un edema, un'infiammazione che poi è la genesi di tutti i problemi. Insomma, al diverticolo il seme non piace. Allora, ci sono dei casi, l'abbiamo anticipato, in cui si deve intervenire chirurgicamente. Vogliamo sapere quali. E in linea con noi abbiamo il dottor Michele Colledan, direttore della chirurgia generale terza, centro trapianti di fegato, di polmone e di intestino agli ospedali riuniti di Bergamo. Buongiorno, dottor Colledan. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore, quando entra in scena il chirurgo? Ma il chirurgo va innanzitutto detto, ribadito, perché sicuramente è già stato detto in precedenza, che entra in scena in una minoranza dei pazienti. Sì, con il dottor Fagiuoli ci ha già tranquillizzato. Questi pazienti con malattia diverticolare sono una minoranza dei pazienti con diverticolosi. Può entrare in scena il chirurgo in due circostanze, in una situazione di urgenza o in una situazione di elezione. Sì. In situazione di urgenza significa quando le conseguenze di una diverticolite sono particolarmente severe fino a portare a una peritonite generalizzata. Ancora la peritonite circoscritta, cioè quando l'infiammazione del peritoneo è circoscritta per le aderenze che si sono formate, la chirurgia non è necessaria e anche in presenza di ascessi oggi con la radiologia interventistica è possibile posizionare dei drenaggi senza necessità di un intervento. Meno anche male. Se alcuni già in queste circostanze tendono a operare, ma direi non è l'indicazione. Non è l'indicazione principale. Nella peritonite generalizzata, allora sì, certo, bisogna operare. Un'altra circostanza d'urgenza è quando una ostruzione del colon provocata da ripetute malattie diverticolose, ripetute infiammazioni dal processo fulgistico cronico, provoca un'occlusione intestinale acuta. E lì, questa è un'altra situazione d'urgenza. E lì non si scappa. E spesso in questa circostanza non si ha la diagnosi di malattia diverticolare, si ha la diagnosi di occlusione, si sospetta per esempio una neoplasia e si scopre a posteriori che invece era qualcosa d'altro. Dottore, è possibile un intervento? Che tipi di intervento? Volevo finire sulla elezione. Sì, invece. Certo. In elezione, cioè un intervento programmato, si fa nei pazienti che a seguito di ripetuti episodi infiammatori acuti presentano una delle ulteriori complicanze, che può essere la stenosi, cioè l'ostruzione, non completa ma comunque stenosi, le fistole, una piccola quota dei pazienti che presentano emorragie e anche solo pazienti che hanno presentato un elevato numero ricorrente di episodi diverticolitici acuti possono in alcune circostanze essere candidati di trattamento, sì, candidati all'intervento. Allora, dottore, è un intervento proprio ci dia un flash, è un intervento difficile, faticoso anche nel post-operatorio? Di solito le difficoltà sono legate al fatto che ci sono precedenti episodi flogistici, infiammatori e quindi un po' di aderenze, ma non è un grossissimo intervento in senso stretto. Consiste nell'asportare il sigma, sì, che è la parte di intestino, di intestino crasso, di colon, nella quale la malattia tende a complicarsi. Non c'è bisogno di asportare tutto il colon che presenta diverticoli, perché il resto di diverticoli non sono una malattia. È opportuno asportare il sigma eventualmente fino al giunto retto sigma, cioè la zona di alta pressione che è quella che favorisce poi la persistenza di diverticoli e soprattutto le complicanze. Allora, io vorrei chiederle un'ultima domanda, dottor Colledan. Una persona che si opera rischia poi di trovarsi ad affrontare lo stesso problema se non segue particolari indicazioni, dieta, insomma i diverticoli una volta tolti, però si possono riformare? Ma i diverticoli, come ho già detto, spesso dopo l'intervento persistono, nel senso che una porzione di grosso intestino a monte del tratto resecato può avere ancora diverticoli. Di solito resecando il sigma si modifica radicalmente il regime pressorio all'interno dell'intestino e quindi questi non costituiscono più un problema. È buona regola però continuare a osservare le norme dietetiche che sono state esposte in precedenza, naturalmente. Dottor Fagioli, vuole aggiungere qualche cosa per i nostri ascoltatori che continuano a scriverci? Sui diverticoli, devo dire, arrivano sempre tantissime telefonate, domande. Io ne faccio una prima di chiudere. Lei ha suggerito l'utilizzo di fibre, ma molti ascoltatori mi scrivono sì, mi dite di utilizzare le fibre, però allora mi fanno male perché i dolori aumentano e mi si infiamma tutto. Come mai, dottore? Allora, a questo dedicheremo una puntata apposta perché è molto complicato. Distinguiamo subito due cose. Nella fase acuta le fibre vanno accuratamente evitate. Quindi quando si è nella fase della diverticolite non si devono assumere fibre, anzi in genere si assume una dieta liquida, si prendono gli antibiotici e si sta bravi. E nel giro di un paio di giorni il quadro si deve risolvere, altrimenti bisogna chiamare qualcuno come Michele Colledan. Sì. Se invece parliamo di intestino piuttosto pigro, di stitichezza cronica, l'introduzione improvvisa di un alto volume di fibre e di una discreta idratazione, è chiaro che cambia in maniera drammatica quelle che sono le abitudini di questo intestino un po' abitudinario e pigro, quindi bisogna farlo un po' piano alla poco alla volta, dottore. Vedo che i risultati non li avremo immediatamente, anzi nei primissimi giorni dopo il cambio di dieta probabilmente la sensazione di avere un minestrone che bolle dentro la pancia ci sarà ed è una delle cause per cui molti smettono prima di avere efficacia. Io ringrazio il dottor Fagioli, il dottor Colledan che sono stati con noi per aiutarci a capire di più dei diverticoli. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Io vorrei che segnalarvi però che sul nostro sito c'è una importante intervista ad un chirurgo, a Sandro Rossi, che è direttore dell'ecografia interventistica del Policlinico San Matteo, che ha eseguito un intervento molto particolare su un tumore, quello del pancreas. Andate a sentirvi l'intervista, il dottor Sandro Rossi sarà presto nostro ospite. A domani, buona giornata.